piacerebbe tanto visitar la Spagna, terra di matador e di grandi torreri. Ormai in tiro giù nella caliente Spagna non si ballano più passi doppi e boleri, ora ballano il flamenco rock, ora ballano il flamenco rock. Alle 5 della sera sono le prime matador. Alle 5 della sera non si vede una mantiglia. Su questioni di civile fanno i rock. Sì, fanno i rock. E Spagna, anche tu hai un disco di platters in tutte le case. Dove ballano a ritmo sfrenato le due andaluse. Con i frenetic rock. Della sera il jukebox e voce piena, a Madrid e Barcellona fammi rock, sì fammi rock. Mi piacerebbe tanto visitare la Spagna.